gli innamorati non sono ancora scomparsi. Gli innamorati e i loro vecchi discorsi in equilibrio sulle illusioni, sulle banalità, ma cadranno come aquiloni, questa è la novità. Se il cielo sembra stoffa con tanti lustrini, coi loro sogni appannano i finestrini, pieni soltanto del solito amore, un soffio basterà, vanno a pezzi senza rumore, questa è la novità. Uccideremo il chiar di luna, poeti dell'asfalto, ci ha sempre ingannato noi, noi piccheremo sull'albero più alto. Sempre ubriachi, bevono quarti di luna, gli innamorati passano dentro la cruna, bucano il mare lanciando sassi là nell'oscurità, se ne andranno senza spostarsi, questa è la novità. Uccideremo il chiar di luna, bruciando un momento, ci ha sempre ingannato, lo disperderemo, cenere in mezzo al vento. Gli innamorati non sono ancora scomparsi, gli innamorati e i loro vecchi discorsi.